Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail. Mi rendo conto, questa mattina mi avventurerò in un pericolosissimo crinale. Questa mattina vorrei parlare della felicità del vino. Il vino è un immenso luogo dell'immaginario, anche se percorribile con le proprie papille, ma percorribile anche con la propria esperienza ampliata, devastata dalla possibilità di sentirsi al centro di un meraviglioso flusso di felicità. Parlo della felicità del vino, vorrei parlare anche della disperazione degli avvinazzati, di coloro che del vino fanno un uso secondo me non appropriato. Non capiscono profondamente quale sia la maniera di usare come viatico per uscire da momenti di disperazione, momenti di semplicemente oppressivo grigiore, la possibilità di bersi un buon bicchiere di vino assieme a una persona piacevole, o anche da soli se uno vuole, se i propri pensieri sono una sufficiente compagnia. Ma allo stesso tempo metto già le mani avanti, non voglio fare nemmeno la parte di colui che ignora il fatto che l'uso improprio del vino o l'uso di vini impropri possa portare alla disperazione e alla distruzione. Questa mattina inviterei il pubblico a rispondermi su questo difficilissimo crinale nel quale io vorrei avventurarmi. Oggi molte persone millantano conoscenze profonde ed esoteriche del vino, è una delle maniere di socializzare in forma standard più frequentate. Non puoi andare al ristorante con un ragioniere a cui devi dare in mano la tua dichiarazione dei redditi che non voglia fare il fighetto, che ti succhia il bicchiere, ti annusa il tappo e via dicendo. Normalmente tu non capisci mai se esattamente ci fa o c'è, o se esattamente la perfetta cognizione delle anime profonde che animano un vino. D'altro tempo è molto brutto e triste vedere, soprattutto nelle nuove generazioni, un uso compulsivo della bevanda alcolica. Il vino o i suoi derivati, ma anche il vino, perché non pensiate che siano soltanto i superalcolici o le droghe estreme ad affascinare comunque il desiderio di rottura con la realtà, usate in maniera sbagliata, usate per ottenere uno stato di stordimento, di non reattività, che è totalmente antitetico a quello che penso sia la felicità. 800 24 00 24. Sì, sarà splendida. Credevo che non saremmo mai partiti. Buono, eccezionale. 100% Pinot Nero, da un solo vigneto. Adesso non lo producono più. Pinot Nero? Mm-hmm. E perché è bianco? Oh, Cristo. Non fare domande del genere nelle aziende dove andiamo. Ti prenderanno per un coglione. E tu spiegami. Il colore dei vini rossi è dato dalle bucce. Questo invece è vino fiore, fermentato senza contatto con le bucce. Come esempio significativo di quello che stamattina vorrei affrontare, uno stralcio di Sideways in viaggio con Jack, che è la storia appunto di un signore che, come ultima botta di vita prima di doversi sposare, una sorta di addio al celibato, fa un bel viaggio con un suo amico fissato del vino. Avete sentito già un primo assaggio delle analisi profonde del calice del vino. Questa mattina avremo rappresentanti, diciamo, anche se non abbiamo mai ospiti talebani, comunque di due punti di vista: di un punto di vista del vino come scaturigine di gioia, se saputo usare, amministrare, se si conosce soprattutto, diventa anche un bel e piacevole passatempo, e un esempio di quanto invece in realtà un uso sbagliato e smodato della sostanza alcolica del vino in particolare possa portare a stati non accettabili di abiezione. Però avevo bisogno di una sorta di posizione centrale super partes, quindi ho in studio anche l'amico Giuseppe Neri, vicepresidente della Società Neurologi Ospedalieri. Beppe, è possibile tracciare innanzitutto una piccola mappa della felicità in cui abbia una piccola parte anche il bere vino? Io con un gruppo di colleghi che hanno questo tipo di interesse, è una quindicina d'anni che mi occupavo di questo che, scherzando fra di noi, chiamavamo neuroedonismo. La cosa interessante è che poi le ricerche in campo medico hanno avuto degli sviluppi estremamente importanti. C'è un collega danese che insegna ad Oxford, che si chiama Morten Kringelbach, che per esempio ha pubblicato un interessantissimo studio che si chiama proprio per la un approccio funzionale neuroanatomico al piacere e alla gioia, e lui, proprio sulla base di un'esperienza condivisa e di esperimenti verificabili in laboratorio, ha posto al centro di questo argomento il principio di piacere collegato a due elementi fondamentali della specie sapiens: il sesso e il cibo e il vino. E allora questo significa, da un lato, riconoscere che noi siamo programmati e esistiamo con una codifica che ci rende particolarmente sensibili a questo tipo di stimoli. Resta il fatto che l'utilizzazione, l'approccio, l'elaborazione e soprattutto l'aspetto sociale, interindividuale di questo tipo di esperienza cambia radicalmente l'approccio al problema. Ecco, laddove spunta l'aspetto patologico, qual è il livello di rottura? Una mancata educazione all'uso gioioso di questa sostanza, perché mi aspetto già la telefonata del talebano di senso opposto, mi dirà: voi fate pubblicità a una sostanza che è libera venta, ma in realtà è una droga, è qualcosa che può far male. Sono d'accordissimo che faccia malissimo. Io sono nato in una cantina, mio padre produceva vino in maniera anche artigianale, quindi so esattamente la giusta misura del piacere del vino. Manca, c'è un punto di passaggio che manca. Beh, sai, io mi permetterei di avere un minimo di radicamento proprio storico e geografico. Cioè, noi parliamo del nostro paese, parliamo soprattutto per quanto riguarda l'ambito mediterraneo, di una cultura che ha millenni. Cioè, se tu vai a cercare i classici greci, troverai i lirici che dicevano "nunc cremetusten", che poi nei latini è diventato "nunc est bibendum". Quindi la cultura del vino come elemento caratterizzante del convivio esiste da millenni, e l'utilizzo di questo strumento, che soddisfa da piacere, attiva una serie di circuiti che noi chiamiamo premianti, rewarding, che ha portato a una serie di problemi di abuso. Ma questo va visto, secondo me, con un approccio sia medico-scientifico, ma sia anche culturale e sociale, perché le due cose, secondo me, non sono separabili in maniera tranchant con un colpo d'accetta. 800 24 00 24, avete capito il tema di discussione oggi? Aspettiamo i vostri contributi. Qualcosa di buono? Oh sì, lei ama Pinot Nero e Syrah. Stefani? Sì? Posso davvero aprire quello che voglio? Sì, sì, tutto! Tranne il Richebourg! Richebourg? Ha anche un Richebourg? Porca vacca, ho totalmente sottovalutato Stefani. Mm-hmm. Io direi che questa fa per noi. Andrew Murray. Che gemme hai nella tua collezione? Ah, non la definirei una vera collezione, no, come dire, è una piccola esposizione da salotto. Non ho mai avuto il portafogli per farla, vivo di bottiglia in bottiglia. Sì, ho delle cose che conservo. Uh-huh. La mia star è senz'altro uno Cheval Blanc del 61. Hai uno Cheval Blanc del 61 a casa tua? Sandro San Giorgi, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Sandro San Giorgi è autore dell'Invenzione della gioia, Educarsi al vino, Sogno, civiltà e linguaggio, Portos Edizioni, libro che fra l'altro esce oggi e oggi viene presentato, quindi ce l'abbiamo in mano in anteprima. Sandro San Giorgi, tu saresti esattamente il corrispondente del personaggio del film che stiamo trattando, o c'è una differenza? L'esperto del vino, colui che parla delle bottiglie come degli esseri animati, che classifica la felicità e la centellina in ragione del contenuto di alcune bottiglie. C'è anche un punto di saggezza da aggiungere rispetto a quello che è la lettura più stereotipata del... Quasi si parla di enofilo addirittura, è di un amante del vino come se fosse un'altra dimensione dell'esistenza. È un'altra dimensione dell'esistenza. È un'altra dimensione dell'esistenza. E Sideways ha l'intelligenza di prendere in giro il protagonista e quindi di guardarlo con una ironia attenta, senza inutile sarcasmo, e lo fa con delle battute come quelle che stiamo sentendo e che uno potrebbe riscoprire. Ma non dimentica, e infatti il film è molto chiaro da questo punto di vista, non dimentica che il vino è una nuova, è una dimensione. Ricollegandomi a quello che diceva Beppe poco fa, mi verrebbe da dire che il vino diventa una gioia della vita nel momento in cui è uno strumento per coltivare la bellezza e quindi il gusto. Se ci si concentra sul vino, sia come enofili che come avvinazzati, certo all'apparenza... Tu cosa sei delle due cose? Io sono un enofilo, certamente. Ecco, come ti salvi dall'essere avvinazzato? Beh, io sto molto attento. Sto attento, so bene che per chi fa il mio lavoro e quindi assaggia tutti i giorni, ci devono essere delle pause significative proprio per evitare che l'alcol superi quel confine che io mi occupo di vino da più di 30 anni, sappiamo essere un confine molto delicato. Quindi quando hai cominciato a parlare di crinale mi ha fatto molto piacere, perché in effetti è così che l'argomento vino va trattato. Però proprio perché sono un enofilo e sto attento, ho scoperto che bisogna stare attenti sia dal lato psicofisico ma anche da quello culturale, psicologico. E no? Quali sono i tempi della... perché sia piacevole poi la ripresina enologica? Ci sono dei tempi in cui devi stare senza vino, così sei tranquillo che non ne sei dipendente. Esatto, la ripresina è una bellissima espressione. Io ho scritto sul libro una cosa che non piacerà a molti colleghi. Ho scritto che 3 settimane, per la mia esperienza e quella di alcuni medici che mi hanno seguito, 3 settimane sono un tempo giusto di distacco totale dall'alcol per capire se ci sono dei problemi o no. Quindi a chi piace il vino, chi è un cultore del vino, chi è un enofilo, chi piace assaggiare, studiare, seguire i percorsi dei vini, sarebbe cosa saggia che a un certo giorno della sua vita lo dicesse: sto 3 settimane senza vino. Sì, non è che uno deve farlo continuamente. Una volta, ma se per lui non è un problema, vuol dire che lo deve fare. Sentiamo qualche ascoltatore. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Eccoci. Io sono sicuramente un enofilo, ma questo in realtà rappresenta un problema per me a questo punto, perché anni fa potevo tranquillamente andare a matrimoni, bere con gli altri. Adesso io purtroppo sono diventato estremamente selettivo e in più comporta anche un problema economico. Ma selettivo in campo di vini o di esseri umani? No, proprio in campo di vino, nel senso che certi vini proprio non riesco nemmeno a sentirne l'odore. O vino buono o niente. Esatto, e però questo è un problema perché mi ha anche un po' condizionato, nel senso che, per dire, non so, se io devo spendere 100 euro per un paio di scarpe mi sembrano quasi buttati via. Invece per una bottiglia di vino... Esatto, un Pomerol, piuttosto che, non so, un vino che mi piace veramente, è quasi un affare. Ma io non mi sentirei, poi abbiamo gli ospiti, daranno una risposta più articolata, non mi sentirei in colpa sulla qualità dei propri piaceri. Se la bottiglia di vino è la tua gioia, è meglio per te la bottiglia di vino che il paio di scarpe, che te ne fai delle scarpe. Quando non ti danno poi, le scarpe sono funzionali a camminare, bastano delle scarpe da 30 euro per te e ti vanno avanti finché non si sfondano. La bottiglia di vino si dà quella gioia che per te è importante. Sono soldi ben spesi, come quelli che noi, i soldi meglio spesi sono quelli spesi con, e ognuno poi ha in cima alla sua classifica quello che vuole. Qualcuno li spende anche in carne prezzolata, buon per lui, se per lui quelli sono ben spesi gli danno felicità, faccia pure, non si preoccupi. Giovanni, poi gli ospiti. Giovanni è caduto. Allora, San Giorgi, prima cosa sulla qualità legata al prezzo. Molti obiettano il fatto che per essere un enofilo bisogna concedersi delle cose lussosissime. Mi sembra una volta assistetti a una tua presentazione. Mi prese qualche abbiocco ogni tanto perché preferisco bere piuttosto che aspettare qualcuno mi spieghi quello che bevo. Però tu hai detto una cosa molto interessante. Cioè, la gran parte del vino in vendita, anche di molto prezzo, non è un vino che ha delle qualità estreme. Non è nemmeno detto che il buon vino debba svenare le persone. Esiste una giusta maniera per trovare i vini giusti senza che sia un vizio e che per mantenerselo occorra fare debiti, ecco. Sì, certo. Infatti volevo invitare il nostro amico a sentirci, insomma, perché 100 euro sono una cifra importante. Sono tanti per una bottiglia. Sì, e non è così che funziona. Io sono d'accordo con te, sei già diventato un enofilo, perché in effetti dire una cosa come quella che hai risposto a lui mi sembra già avermi tolto una parte del lavoro. Lo direi rispetto a qualsiasi oggetto procuratore di piacere. Benissimo. L'idea che il vino... Animato o inanimato, Che il vino possa costare... possa costare così tanto è sbagliata, perché esistono diverse bottiglie che costano di meno e che danno una grande soddisfazione. Ora, il problema è proprio questo, quello che ti stavo per dire prima, e cioè un problema culturale, psicologico-culturale. Cioè, ci sono delle persone che vedono il vino come un traguardo e quindi per loro è come una specie di corsa, per cui se non si è assaggiato questo, se non si è speso questo, non si riesce ad ottenere un risultato. Questo, ripeto, è apparentemente diverso dall'avvinazzamento con le altre bevande, però in realtà dimostra qualcosa di psicotico, no? di non sano. È una predipendenza, non è dipendenza di tipo organico, ma dipendenza psicologica. Vuoi il vino fighetto perché ti senti che senza quello non ce la fai. E allora, se invece noi recuperiamo l'elemento centrale del vino, che è il suo rapporto con la tavola e quindi con la bellezza, a questo punto cominciamo a pensare che il vino può dare delle soddisfazioni inestimabili proprio nella sua circolarità, cioè non c'è più la necessità di bere quella bottiglia assoluta per rendersi conto che il vino è buono. La bontà del vino è nel suo rapporto col cibo, è nella sua purezza, nella sua trasparenza, e quindi in cose che si possono trovare sia in piccoli vini che in grandissimi vini. Sentiamo Gabriella. Gabriella, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per la trasmissione. Dunque, io non so se mio marito, io adesso ho 70 anni, i miei figli hanno 40 anni, non so se mio marito ha avuto una carta vincente, ma a un certo punto quando i ragazzi... Ma è vivo ancora? No, purtroppo. Ah. Mio marito no, purtroppo. Quindi parliamo siamo artigiani, e mio marito era anche medico. A un certo punto i ragazzi avevano sui 18 anni, ci ha iscritti tutti a un corso di sommelier. E siamo andati tutti e cinque al corso di sommelier. Da quel momento in casa nostra è entrata la cultura del vino. E questi miei figli hanno anche aiutato, devo dire, altri ragazzi, credo, in modo valido, perché hanno spiegato a loro, hanno trasferito a loro veramente la cultura di quello che vuol dire bere. Io non so se questa è stata una carta vincente, ma io penso di sì. Beppe Neri, la moglie del medico ci dà questa testimonianza. No, ma c'è una lunga storia di approccio dei medici al vino, e io racconto sempre che la metà degli anni 90, quando conobbi San Giorgio, c'era una bipartizione molto interessante e molto specifica del campione. Intendo dire, i medici che avevano un certo approccio al mondo del vino andavano in corsi molto stile, che si tenevano in grandi alberghi con una valigetta di alluminio anodizzato, degli esami, dei titoli riconosciuti, ma anche incontri da 80-100 persone con un docente, ripeto, degli esami. Altri, che eravamo un pochino orientati per un approccio meno strutturato, andavamo a incontri di 10-12 persone, in cui c'era l'aspirante ristoratore di Tor Bella Monaca e la signora chic dei Parioli, che si mettevano intorno a un tavolo e ascoltavano, in questo caso, Sandro, che approcciava il problema del vino come stimolo culturale, non come elemento ostentativo. Il guaio è che oggi io vedo intorno a me tanta gente che, oltre che ostentare il nuovo tipo di SUV ultracoso, o la ragazza probabilmente di provenienza slava con caratteristiche estetiche particolarmente significative, deve avere il vino all'ultimo grido da proporre nella circostanza conviviale, perché quello non solo è uno status symbol, ma è un elemento distintivo specifico dell'acquisizione di uno status in una scala sociale che obbliga ad avere dei segnali molto ben riconoscibili. Ma questo ha ingenerato la mia naturale riottosità rispetto agli esperti di vino, non me ne voglia San Giorgi, che è vecchio del mestiere. Odio sedermi a tavola con persone che millantano conoscenze di vini. Io preferisco, lo dissi una trasmissione fa, che scelgano gli altri il vino per me. La mia incompetenza è totale e voglio che rimanga tale. La mia capacità di trovare la gioia nel buon vino invece è inestinguibile. Al telefono abbiamo l'altro ospite che rappresenta l'altro versante, non vogliamo fare contrapposizioni manichee, che intanto presento, poi avrà più modo di esprimersi dopo le informazioni della borsa, che è Flavio Pagano. Flavio Pagano, buongiorno. Buongiorno a voi. Flavio Pagano è autore di Ragazzi Ubriachi, edizione Manifesto Libri, che è una storia che rappresenta, diciamo, il lato oscuro rispetto a quello che noi stiamo dicendo, rispetto alla gioia del vino. O sbaglio? Ma sì, rappresenta soprattutto un momento della vita molto particolare, perché ovviamente i ragazzi ubriachi sono adolescenti che si avvicinano quindi al bere, sullo slancio, diciamo, di una dimensione della vita completamente diversa da quelle accorte e ben elaborate che abbiamo descritto finora. Tu dicevi, sono nato in una cantina, è una bellissima immagine, però l'importante è non morire, diciamo, in una cantina, nascerci invece è bellissimo. E naturalmente per i ragazzi, rispetto al mondo degli adolescenti, può essere l'anticamera, diciamo, di cominciare a bere. Ci sono anche delle bevande colorate, studiate apposta, proprio a basso qualche modo per avvicinare questi ragazzi al bere, ma il bere può essere l'anticamera di situazioni anche tragiche. Allora Pagano, continuiamo tra qualche istante dopo le informazioni dalla borsa, perché è giusto mettere in luce anche questo aspetto, che però non lo vedo antitetico, lo vedo complementare. Laddove manca una cultura del vino, laddove la sostanza alcolica è semplicemente l'elemento di sballo, naturalmente il percorso è totalmente diverso rispetto a quello gioioso di cui oggi noi, persone già con un piede nella fossa, possiamo parlare con soddisfazione. Tenete le mani sul tavolo di qualcosa che in fondo contribuisce all'apprezzamento gioioso della nostra vita. A tra un istante. Melog 2.0. Non capisco come tu riesca a bere in quel modo. Bevuto dalla bottiglia avrà un saporaccio. Bisogna soffrire per avere ciò che desideriamo. Non è così? Credo di sì. Mi piace guardare l'acqua. A vederla da vicino è sporca, ma a me piace guardare al largo, dove è pulita. Sai che cosa penso? Io credo che guardo l'acqua perché... Aspetta, 800 24 0024, stiamo ascoltando un brano di I giorni del vino e delle rose. È una storia d'amore, se così può essere chiamata, basata su una condivisione di dipendenza all'alcol. Stiamo parlando del vino nelle sue accezioni più varie, una sostanza, il vino, dall'ineffabile potere. Bisogna sapere come uno lo sa gestire, bisogna avere il patto che fa con l'anima del vino. Il vino può portare alla distruzione, alla dissoluzione, come nel caso di questa coppia. Una moglie spinta da un marito accanito bevitore comincia a bere anche lei, quindi lo segue in quella strada. E in un rapporto di coppia, in un rapporto d'amore, in un rapporto di passione, in un rapporto anche semplicemente fugace, momentaneo, un calice di vino, due calici di vino, fino a una bottiglia di vino, può essere un fantastico lubrificante verso la gioia. Ne stiamo parlando con Sandro San Giorgio, che è autore dell'Invenzione della Gioia, appunto, Educarsi al vino, sogno, civiltà e linguaggio. Libro oggi è uscito per la Portos Edizioni. San Giorgio, soltanto due piccolissime puntualizzazioni. Rispetto a quello che stavamo dicendo, abbiamo iniziato a considerare anche l'aspetto oscuro del vino e anche queste ostentate e millantate competenze. Qual è un punto di giusta saggezza rispetto a questi due problemi? Il punto di saggezza è proprio quello che ti dicevo, è se vogliamo ricorrere alla poesia, insomma, è la poesia il punto di equilibrio, cioè trattare il vino nel modo corretto. Quando prima si parlava dell'aspetto culturale, la cultura è una base fondamentale per evitare, come dire, deviazioni pericolose, ma molte persone che ho conosciuto, persone di cultura del vino, enofili di grande anche acutezza, in realtà cercavano nel vino un rifugio, e questo è inaccettabile. Quindi non assolve la capacità di comprenderne e conoscere l'aspetto culturale dal fatto di esserne schiavi, diciamo la verità. Anzi, paradossalmente succede qualche cosa di più grave, e cioè in qualche modo c'è una sorta di autogiustificazione, perché in fondo uno dice in fondo lo devo fare per lavoro, oppure ormai è diventata la mia vita e allora non posso più abbandonarlo, non posso più staccarmi, non posso più prenderne le distanze. È come se un maniaco sessuale facesse il ginecologo, la stessa cosa, ha una giustificazione. Si sente in qualche modo autorizzato quasi dalla società. Ecco, questo ricorrere al vino come rifugio è una cosa che ha colpito diversi miei amici, che si sono persi poi in questo. Te ne accorgi, perché ci vogliono queste pause. Queste pause, tu hai detto una cosa bellissima prima, hai detto ripresina del piacere della degustazione. Sì, che ha un doppio senso orrendo, però la ripresina è considerata la giusta pausa che viene fatta fra un atto d'amore e l'altro, diciamo, centellino il tempo dell'attesa, capito? Ecco, questa è la ripresina, però messa nel campo del vino mi sembrava giusta. Beppe Neri, sei d'accordo? No, sono d'accordo, perché tu sei un esempio vivente di come il nostro cervello processi alcuni tipi di segnali nello stesso ordine, nel senso che, vedi, tu tratti i due tipi di ripresa utilizzando la stessa parte di corteccia cerebrale. Ma se entrambi danno il piacere, gioia, il sesso e il vino, li stai trattando tutti insieme, perché in realtà così i nostri neuroni dialogano. Però tornando a quello che diceva... No, ma è sbagliato questo, solo per capire. No, il problema è che tu hai il privilegio di non filtrarlo, per cui si evince, mentre noi di solito, per motivi culturali o di educazione che abbiamo ricevuto, lo condiamo di chador o di burca che maschera. Ah, perché viene stabilita una gerarchia di piaceri confessabili. Il piacere del vino, bravo, anche se uccide, bravo, si può dire. L'altro bravo. Piacere è meglio non parlare. Però tu li trasmetti rendendo manifesto il fatto che convogliano due strade, due percorsi che nel nostro cervello vengono trattati dallo stesso software. Se vuoi. Ah, questo mi è chiaro. Questo è il concetto. Riprendiamo il discorso con Flavio Pagano, autore di Ragazzi Ubriachi. Pagano, dici, sì, tocca, nei termini, ecco, il tema che tu conosci. Questo ruolo tenebroso, diciamo. No, non è tenebroso, sai, svisceriamo della realtà anche l'aspetto che, giustamente, certo, solo daremo un'informazione limitata. Forse c'è da dire anche che proprio le tonnellate, diciamo, di poesia, questa immensa cultura del vino e del bere sono alle spalle di certi comportamenti, perché spesso anche noi lo vediamo nei nostri padri, no? Sono questi versi immortali di Orazio, di Ovidio, dove bevi per dimenticare. Per i ragazzi questa ebbrezza, questa sensazione piacevole di distacco dall'esistenza, di leggerezza che dà il bere, per i ragazzi però diventa dimenticare una vita che non si è vissuta, dimenticare il futuro, insomma, e quindi è una prospettiva completamente diversa. Donna, c'è una storia vera nel tuo libro, però, anche se trattata in maniera romanzata. È una storia vera ed è una di quelle storie striscianti, perché naturalmente è una situazione di parte da una normalità assoluta. Una situazione dove non accade niente di straordinario, però l'esito di questo non essere straordinario della storia è in gran parte tragico. Io, benché i dati abbiano in sé qualche cosa di ripugnante, ne cito uno: il 25% in Europa delle morti tra i 15 e i 29 anni è legato in maniera diretta o indiretta all'alcol, per dare una misura dell'impatto, no, diciamo. Stiamo riferendo Beppe Neri. No, il problema è che mi viene in mente, con molto rispetto per chi sta parlando, Trilussa, nel senso che i dati dell'Unione Europea e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità mettono insieme Helsinki, Uppsala, la Lettonia, la Lituania, cioè un paese in cui c'è un abuso di superalcolici, penso a tutte le forme di vodka e di grappa, con Scicli, Ragusa, Alcamo, in cui la situazione culturale è tutto diversa, per cui questo 25 è verissimo, bisognerebbe sapere che è molto diversamente stratificato per latitudine. Questo accade anche nelle nostre regioni italiane, certo, devo dire, certo, onestamente. Certo. Pagano, su questa ulteriore analisi dei dati statistici. Ma direi sì, sulla latitudine io non ho certamente la competenza tecnica dell'ospite, però questa storia avviene a una latitudine opposta di quella di Uppsala, perché avviene in Spagna, quella di cui parlo io, dove vi posso assicurare che in questa Spagna, diciamo, sospesa in una strana recente, diciamo, era alquanto ebra modernità, sai, il boom economico della Spagna dalla dittatura finita in fondo non molto tempo fa ha tolto un po' i freni alla società di qualunque tipo. Comunque siamo nel sud estremo dell'Europa e la situazione dell'alcolismo, soprattutto giovanile, è un problema sociale importantissimo. Non sono i contadini che si fanno il bicchiere di vino, sono ragazzi che escono e per avvicinare una ragazza devono stare un po' ubriachi, quindi c'è una dimensione di solitudine che esprime alcuni tra i mali più profondi, mi sembra. Sentiamo un attimo, stiamo Stefano, l'ascoltatore Stefano. Stefano, buongiorno. Buongiorno e niente, complimenti e ringrazio per avermi chiamato. Un piccolo cappello, saluto caramente Sandro San Giorgi, che conosco da tanti anni, stimatissimo. Salve. E amatissimo amico. Grazie. Al di là di questo, stavo giusto lavorando in cantina, nella mia cantina qui in Maremma, e sentivo la trasmissione e l'argomento. Io sono 35 anni che lavoro nel mondo del vino e in particolare nella produzione, e devo dire che mi definisco un costruttore di sogni, però nel mio percorso ho voluto dare un'occhiata a cosa succede al di là di quello che può sembrare una rosea rappresentazione di quello che è il nostro lavoro, per cui mi sono dedicato a un volontariato presso gruppi di alcolisti anonimi. Ma questo è interessante, lei produce vino ma si occupa anche di volontariato per il recupero degli alcolisti. È stata un'esperienza da me voluta perché veramente volevo capire che ma aveva dei sensi di colpa? Scusi la domanda così diretta. No, no, perché volevo essere coerente con quello che normalmente mi presento, cioè chi mi dice qual è la tua, perché la scelta, questa scelta di vita. E la mia scelta è veramente stata dettata da una grande passione per la terra, per una grande passione per la vigna, che è una storia che dura da più di 2000 anni, e per quello che potevo fare come artista della terra nel proporre e nel produrre un prodotto che si chiama vino, che ogni anno rinnova la sfida. Ecco, se dovesse sintetizzarlo proprio in una battuta, perché fra un po' devo ridare la linea all'informazione del traffico, come definirebbe la radice, la devianza nei confronti del vino che lei ha descritto in maniera così completa, così totale? So bene cosa significhi vedere una vigna crescere, piantare una vigna, fare lo scasso per una vigna e aspettare che sia produttiva per darti il vino. Non dimenticando la sofferenza che da questo ne produce, perché non è tutto rose e fiori. Figuriamoci, quando arrivano le ghiacciate che gelano le viti è un suicidio. Cosa... può sintetizzarmelo questo elemento? Perché lo stesso vino credo che gioia e cultura, allora, porta alla disperazione. Ma io credo che per quello che è la mia esperienza, se ho capito bene la sua domanda, mi perdoni se non le rispondo appropriatamente, per la mia esperienza proprio nel seguire questi gruppi, credo ormai, sono convinto, che l'alcolismo e comunque l'abbandono sia una vera malattia, è una patologia, non è più la ricerca nel vino. Il vino è una scusa, come può essere l'aperitivo alle 8 di mattina alcolico, senza fare nomi, diventa una scusa, diventa un elemento, ma è una malattia, non è più quello che è la conseguenza di un qualcosa che può essere legato a cultura o produzione o ricerca del differente. Mi sembra chiarissimo quello che ha detto lei. Vedremo dopo le informazioni del traffico, la saluto e la ringrazio, che diamo adesso. Beppe Neri, cosa ha da aggiungere rispetto alla sua lettura? A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Allora, da quanto ti piace il vino? Faccio sul serio da 7 anni. E qual è stata la bottiglia decisiva? Sassicaia 88. Ah, ma complimenti, sì. Una grande bottiglia. Direi. Ora capisco, sì. Cavolo, niente male, è proprio buono. Ha bisogno di un minuto, ma ha un grande gusto. Tu che ne 80024, 0024, io confesso che non reggerei più di tanto una conversazione del genere in attesa che qualcuno mi faccia finalmente bere, ma... qualcosa da aggiungere senz'altro Sandro San Giorgio, che è in studio con me. Oggi parliamo di vino, di cultura di vino, di essenza del vino, essenza da gestire, che è autore dell'Invenzione della gioia, Educarsi al vino, Sogno, Civiltà, Linguaggio, Portos Edizioni. Sandro San Giorgio, riprendiamo un po' il punto sull'analisi e la gestione del vino, perché sennò pecchiamo di non necessario bilanciamento la nostra posizione, che dovrebbe essere equanime, in realtà non lo è mai. Non si può, in effetti, sì. Non si può essere sempre così bilanciati. Quindi adesso che ho fatto... Poi vedi che emotivamente come faccio. In 10 minuti abbiamo trasformato quella che è un'immagine di gioia, di carnalità, in qualcosa che immediatamente mostra, come se fosse spento il sole improvvisamente sulla vigna che stiamo descrivendo. Lo riaccendiamo. Insomma, un po' ce l'ha fatta anche Stefano, che è stato bravo, secondo me, a mettere in luce anche questo aspetto. Vedi, lui la parola vino l'ha detta soltanto dopo qualche istante, no? E questo è interessante. Ha parlato del lavoro, ha parlato della vigna, e quindi dal suo punto di vista siamo già avanti. E cioè il vino non è più il soggetto, non è più il rifugio. Quando parlavamo della poesia poco fa, dicevamo proprio questo, cioè che la poesia è una manifestazione molto simile a quella del vino. È il controllo su quello che ci produce l'effetto determinante. Quindi le poesie di Orazio e degli altri, anche dei persiani, oppure Gilgamesh per esempio, o anche quelli più recenti, insomma, le poesie sono utilissime. Non perché mettano al riparo, cioè il vino mette al riparo dai dispiaceri e fa dimenticare tutto. La poesia in realtà trasforma l'idea del vino nella sua vera essenza, e cioè la possibilità di concedere la gioia. Neruda dice una cosa bellissima, dice attenua la paura o rafforza l'allegria, quindi dice sempre è alla portata dell'uomo, non è mai determinante, è alla portata della persona. Quando Baudelaire, leggendo Brillat Savarin, dice idealmente, Barthes, leggendo Brillat Savarin, dice idealmente a Baudelaire che la differenza fra lui e Brillat Savarin era nella percezione del vino, dice una cosa interessante, dice la conversazione e quindi il fatto di usare il vino con attenzione è la legge che garantisce il piacere culinario ed enologico da ogni rischio psicotico, e dice mantiene il buon gustaio nei limiti di una sana razionalità. Cioè è vero, il vino è intimità, è coinvolgimento, è emotività, no? E questo è verissimo, io lo racconto tutti i giorni, ma bisogna sentirsi il confine dopo il quale non si può andare. Bisogna avere a un certo punto il desiderio di fermarsi, ma proprio un desiderio netto. Sì, ma come lo comunichi? Quando uno pubblicizza un vino, giustamente chi produce vino dovrà fare pubblicità al proprio prodotto. Come riuscire a sintetizzare in una comunicazione quello che tu adesso è frutto di una vita di lavoro, di poderosi volumi che scrivi, che prepari e tutto? Non è così facile. Beh, proprio il riparo fondamentale è la tavola, cioè il rapporto con la tavola mette già a nudo l'eventuale dipendenza. Come beviamo, come ci comportiamo con una bottiglia, come teniamo il bicchiere? Tu dici, io non voglio aspettare, versami il vino che lo voglio assaggiare. Ecco, c'era un grande produttore in Borgogna che diceva, il vino si versa nel bicchiere, si osserva, si annusa, si poggia il bicchiere e se ne parla, prima ancora di assaggiarlo. Ora, non fa differenza, secondo me l'approccio è giusto. Il problema è proprio osservare le persone e fare in modo che si osservino per capire come vivono l'acquisto di una bottiglia, come vivono il consumo del vino, come vivono anche il rapporto con il cibo. A supporto della mia specificità cerebrale, per cui vedo tutti i piaceri associati, e la mia sinestesia del piacere non fa distinzione, capito, fra gli input che mi possono arrivare, ho una donna molto legata al vino, Cinzia Canzian, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Cinzia Canzian è una donna per cui la vita è una bollicina, e già questo ci dovrebbe far pensare. Produce un vino che si chiama Osè, a Vittorio Veneto, che già in sé è quasi una lubrica dichiarazione di disponibilità, di intime d'azioni. Una donna come si rapporta col vino? Hai sentito più o meno quello che abbiamo detto fino adesso, sì, Cinzia? Ho sentito gli ottimi interventi e molto interessanti anche. Sì, che non siano tutti pro domo tua. Questo senso del piacere, della piacevolezza, che però deve avere un limite, ne sei consapevole, ne sei portatrice di questo messaggio, o sei sprocedata e limitata nei piaceri che dispensa il tuo vino? Ma ritornando, concentrandomi su quello che è il tema poi della trasmissione, quindi la gioia che dà il vino, io sono convinta che la gioia sia quella del vino, così come quella di altre cose, quindi il piacere che può essere l'amore o quant'altro, è percepibile nel momento in cui tu sai distinguere il bene dal male, il buono dal cattivo. In sostanza ci deve essere un'educazione che è un'educazione che tu cerchi prima nella famiglia, quindi quando sei ragazzo è la famiglia un po' che ti guida in questo, e poi è la scelta di chi ti sta accanto, dei tuoi amici. Quindi il vino è questo, il vino non è mai solo, l'alcol è solo, il vino è qualcosa che ricerca la comunicazione, che ricerca la persona con cui condividerlo, quindi come diceva Sandro San Giorgi, la tavola, il cibo, è un momento di chiacchiera, di risate, anche se vuoi di scontro può essere, comunque dialogo. Mi sembra molto chiara e fondamentale e fulminante una frase, Beppe Neri, la chiusura proprio in pochi secondi, visto siamo già in sigla, il vino non è mai solo, ma l'alcol è solo. Questo è vero ed è innegabile. Il problema è che l'aspetto conviviale e sociale, il fatto che appunto Roland Barthes diceva il vino richiede una comunità, è questo che fa la differenza e che secondo me può vaccinare dalla solitudine dell'alcolismo. Grazie Beppe Neri, grazie appunto a Sandro San Giorgio, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, a domani. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.